Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci aspetta il decreto, un incontro con le regioni perché vorremmo stasera varare il DPCM nuovo con le misure anti-Covid. E dovrebbe arrivare stasera, o stasera o domani al massimo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il nuovo DPCM. L'avete sentito, il Presidente del Consiglio Conte che lo ha detto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove regole per contenere il Covid, questa nuova ondata, questo nuovo incalzare del coronavirus in Italia. Ci sono diverse anticipazioni di cui parleremo, scusate, nel caso non dovesse arrivare entro stasera, già ci sono insomma delle ipotesi, tutte abbastanza diciamo quasi sicure, ma insomma vedremo man mano nel corso di questa puntata di Effetto Notte che cosa d'altro viene fuori. Ci sono varie anticipazioni che stanno man mano emergendo. E poi a proposito del nuovo DPCM c'è l'allarme di Cozzoli, che è il presidente dell'azienda pubblica del CONI, dello Stato, insomma, salute e sport e salute, che dice: ma attenzione, col nuovo DPCM, se ci fossero anche delle restrizioni sulle attività sportive, attività motorie, eccetera, questa cosa può essere grave perché lo sport è salute, come giocando insomma un po' col titolo del nome della società, appunto, Sport e Salute. Ne parleremo proprio con Cozzoli, parleremo anche di queste anticipazioni, vi dicevo, e poi ci sono delle novità che riguardano Sanremo, per alleggerire, insomma, per non parlare soltanto di coronavirus, sempre sperando che a marzo si possa tenere Sanremo. 349-238-6666 è il numero per i vostri commenti via WhatsApp, oppure come al solito c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Direi di partire subito con la sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia, contagi in calo ma a fronte di meno tamponi, in aumento le vittime. Stasera si attendono le nuove misure del governo, no a una chiusura generale, garantisce il Presidente del Consiglio Conte, e Speranza emana una circolare che modifica la quarantena. Il Covid preoccupa l'Europa, il primo ministro britannico Johnson annuncia un lockdown con 3 livelli di gravità. Intanto in Francia si contano nelle ultime 24 ore 27.000 nuovi contagi. Economia, settimana cruciale per il governo sui conti pubblici, l'esecutivo incontra i sindacati sull'ex Ilva. Il Nobel per l'economia assegnato a Paul Milgrom e Robert Wilson, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi modelli. Il mondo dello sport e il coronavirus, l'esempio dell'NBA americana potrebbe essere un modello per i nostri campionati. E intanto il presidente di Sport e Salute lancia l'allarme riguardo la possibile stretta sulle attività sportive, dice: lo sport è salute anche psicologica. Orsi torna libera in Trentino, l'orsa JJ4. Partiamo quindi dall'andamento del Covid-19 in Italia. Come sempre cala il numero dei contagi nelle ultime 24 ore, ma è basso anche quello dei tamponi effettuati, in aumento invece le vittime, che sono 39. La domenica vengono effettuati meno tamponi, risultano così in calo i nuovi casi in Italia, 4.619 a fronte di 85.000 test, ancora in crescita i morti, 39, e i ricoverati, che sono 300 in più, 32, quelli in terapia intensiva, oltre 600 i casi in Lombardia e in Campania, in Abruzzo sono stati 117, uno dei dati più alti di sempre in regione. Numeri che devono far tenere alta l'attenzione, ma che per gli esperti non vanno messi a confronto con quelli del lockdown di primavera. A fine marzo, a fronte di un numero simile di nuovi positivi, le vittime erano centinaia, migliaia i ricoverati e il tampone veniva effettuato solo sui sintomatici gravi. In pochi mesi, spiega il virologo milanese Francesco Broccolo, siamo passati da una media di 30.000 a una di 110.000 tamponi al giorno, che ancora, sottolinea, non sono sufficienti. Quanto alla possibilità di test rapidi, però, semaforo rosso 24 mattino del virologo Andrea Crisanti. I tamponi rapidi hanno una sensibilità tra il 65 e l'80% rispetto ai tamponi normali. Il tampone rapido non può sicuramente essere utilizzato per circoscrivere e eliminare focolai. A Napoli, il nuovo focolaio in una residenza per anziani, 48 i positivi, quasi tutti asintomatici, RSA, che sono stati oggetto nei mesi scorsi di oltre 1.000 controlli da parte dei NAS, risultando irregolari nel 20% dei casi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo si prepara a un giro di vite per contenere il diffondersi dell'epidemia. No a un lockdown generale, garantisce il Presidente del Consiglio Conte. In corso su questo anche un confronto con le regioni per delle misure che potrebbero arrivare, come vi dicevo a momenti. Tra i possibili provvedimenti, stop a gite scolastiche e a sport di contatto amatoriali. Però ne parleremo nel corso della puntata, così come si cercherà di fare chiarezza nel corso di Effetto Notte sulla nuova circolare emanata dal Ministro Speranza che modifica la quarantena. I viaggi di Radio 24. Inizia a pieno regime da questa settimana la campagna vaccinale per l'influenza, prova generale per il vaccino Covid e attesa da molti italiani. Questa settimana cercheremo di capire come si sono organizzate e come stanno andando le regioni più a rischio. Cominciamo dal Veneto. Il Veneto, tra le prime regioni in Italia ad aprire le gare d'acquisto la scorsa estate, inizia oggi a somministrare il vaccino anti-influenzale ai primi pazienti delle fasce a rischio. Il Veneto ha per il momento acquistato, con una spesa di oltre 8 milioni di euro, circa 1.350.000 dosi di vaccino anti-influenzale, un quantitativo superiore di oltre il 60% rispetto alle 800.000 dosi acquistate lo scorso anno. La gara è ancora aperta per eventuali nuovi ordini. C'è quindi la garanzia della vaccinazione per le categorie a rischio: bambini, anziani e fragili, operatori sanitari in primis, ma poi anche lavoratori esposti particolarmente al contagio nei settori essenziali, come gli operatori delle case di riposo, gli addetti ai trasporti pubblici, secondo le priorità indicate dai piani pandemici internazionali. Francesca Russo, direttrice della prevenzione della Regione Veneto. Abbiamo naturalmente alzato la possibilità di vaccinarsi, uno perché secondo la circolare del Ministero bisogna partire con l'offerta a partire dai 60 anni e non dai 65, quindi abbiamo 5 corti in più. E poi perché abbiamo previsto una percentuale di adesione maggiore per quanto riguarda questi soggetti dai 60 anni in più, e poi anche una percentuale di adesione maggiore per quanto riguarda gli operatori sanitari, e anche speriamo una percentuale insomma più alta rispetto alle categorie a rischio. A fine ottobre la Regione fornirà una prima tranche di dosi alle farmacie destinate ai soggetti non a rischio che desiderano vaccinarsi, un primo stock di 35.000 dosi cui si potranno aggiungere ulteriori forniture nel corso dell'inverno a seconda delle richieste. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 ore. E abbiamo parlato della situazione, dell'andamento del coronavirus in Italia. Decisamente più preoccupante è la situazione in Europa. Cresce l'allarme, il governo francese per esempio studia un coprifuoco serale a Parigi sul modello di Berlino e Francoforte, mentre il primo ministro britannico Johnson ha comunicato la decisione di introdurre un lockdown su 3 livelli di gravità. Macron, il presidente francese, si rivolgerà mercoledì sera ai francesi sulla crisi sanitaria, e si tratta questo della quinta volta che interviene dall'inizio dell'epidemia. Lo fa mentre gli indicatori stanno peggiorando. Il numero di contagi in Francia sabato è arrivato vicino ai 27.000. Sul fronte vaccini, gli Stati Uniti guardano anche all'Europa, pronti nuovi investimenti, mentre Trump tranquillizza: vaccini e cure stanno arrivando rapidamente. Quasi mezzo miliardo di dollari è quanto il governo statunitense sta investendo nello sviluppo e nella distribuzione su larga scala del vaccino anti-Covid del laboratorio britannico AstraZeneca in fase avanzata di sperimentazione clinica e le cui prime dosi verranno distribuite a dicembre. Ad annunciarlo lo stesso gigante farmaceutico, con un investimento di 486 milioni di dollari, si precisa, il governo statunitense contribuirà allo sviluppo e alla distribuzione di 100.000 dosi entro la fine del 2020 e potrebbe acquisirne un milione in più nel 2021. Il gruppo farmaceutico, che parallelamente con l'Università di Oxford sta sviluppando un vaccino considerato uno dei più promettenti, ha già annunciato a fine agosto di aver avviato l'esperimentazione di fase 1, mentre si sta avanzando rapidamente negli studi di fase 3. Vaccini e cure arriveranno rapidamente, assicura dal canto suo il presidente americano Donald Trump, che continua a giocare la carta dell'ottimismo in funzione elettorale, mentre polemico con l'Europa. Non erano quelli con pochi contagi, scrive in un tweet. Le fake news indicavano il vecchio continente come modello da seguire, come esempio di quelli che contro il Covid facevano bene, mentre, scrive, è in corso una grossa impennata del virus cinese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 ore. Di nuovo in Italia, anche la politica italiana deve fare i conti con il Covid. Altri deputati in auto-isolamento alla Camera, timori sui numeri della maggioranza. Tra gli interventi di politica economica resta in primo piano il futuro del comparto siderurgico, con il ruolo centrale giocato dall'ex Ilva di Taranto. Oggi nella città pugliese c'era Conte con 8 ministri. È stato il futuro dell'ex Ilva il tema in primo piano nella visita del Premier Conte a Taranto. I soldi del Recovery Fund serviranno anche per la transizione energetica dello stabilimento siderurgico e per preservare l'occupazione, ha detto il Premier, ricordando che nel negoziato in corso il governo ha richiamato ArcelorMittal alle sue responsabilità. Oggi non è pensabile gestire un impianto del genere senza avere premura per le ricadute sociali, l'impatto ambientale e la sostenibilità. Accompagnato da 8 ministri, nella sua giornata a Taranto, Conte ha anche incontrato le associazioni sindacali dell'ex Ilva e in mattinata ha assistito alla posa della prima pietra nel cantiere dove sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Assolombarda. Oltre 800 imprenditori allineati per l'assemblea generale per rispettare le regole anti-Covid-19. All'aperto, nell'hangar dell'aeroporto di Linate, sul palco dell'Assemblea Generale di Assolombarda, dal titolo Ogni impresa qui è possibile, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lancia un appello. Siamo tornati indietro con numeri da guerra, eppure c'è un rimbalzo grazie alla manifattura industriale. Non fermate la locomotiva dell'industria italiana. Aggiunge che è il momento delle riforme per un paese normale, ribadendo anche che nei contratti le aziende vogliono fare la loro parte e non è il momento degli scioperi. Noi li vogliamo fare i contratti, vogliamo dare i soldi alle persone, ma li vogliamo dare in maniera sostenibile e intelligente. A preoccupare le imprese a Assolombarda è anche lo stato di salute dell'economia. Un appello a non ritardare sui fondi europei al governo, rivolto anche al commissario europeo Paolo Gentiloni, in collegamento, che sottolinea come la ripresa in Europa sia in corso ma sta rallentando e non è omogenea, ma rassicura e avverte. Questo contributo europeo arriverà, è una cosa straordinaria, non la possiamo utilizzare come se fosse invece una specie di aiuto alle nostre cose ordinarie. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al Nobel per l'economia 2020, che è stato assegnato agli americani Paul Milgrom e Robert Wilson per i progressi nella teoria delle aste e per le invenzioni di nuovi sistemi di aste a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti. Il mondo dello sport, che ormai sappiamo è tra i più colpiti dalle conseguenze della pandemia, allora nel calcio italiano è partito un tam-tam per provare ad adottare una soluzione che oltreoceano ha funzionato. Le finali NBA nella bolla di Disney World in Florida ancora negli occhi, con un'organizzazione certo costosa, certo per uno sport diverso, ma altrettanto certamente perfetta. Il continuo aumento di positivi che mette a rischio salute degli atleti e regolarità dei tornei. Tutti motivi che stanno spingendo anche molte componenti del calcio a pensare di creare delle micro bolle proprio in stile NBA per poter continuare a giocare in sicurezza. Le caratteristiche? Ritiri per le squadre di almeno 2 settimane, contesto ogni 4 giorni e uscite solo per le partite. Proposta che andrebbe, ovvio, ampliata, approfondita, meglio strutturata, ascoltati poi i propri protagonisti, cioè i calciatori. Senza dimenticare che forse sarebbe bene rivedere a quel punto anche i calendari dei campionati e pure delle coppe europee, per salvare gioco e business. Sacrifici, certo, chiesti al football come a ognuno di noi. E se gli ha fatti LeBron James, che possa riuscirci anche Ronaldo? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Facebook, parliamo di questa iniziativa, vieta i contenuti che negano l'Olocausto. Lo annuncia la stessa società, spiegando che è un altro passo nell'impegno per combattere l'odio nei servizi. Se le persone cercano l'Olocausto su Facebook, inizieremo a indirizzarli a fonti autorevoli per ottenere informazioni accurate, sottolinea l'inventore di Facebook, Mark Zuckerberg. Sono stato combattuto tra la libertà di espressione e il danno causato dal minimizzare o negare l'orrore dell'Olocausto, dice. Il mio pensiero si è evoluto quando ho visto i dati che mostrano un aumento della violenza antisemita. Sanremo, sono state annunciate novità tra canzone d'autore e ritorno al televoto, ma le scopriremo durante questa puntata di Effetto Notte. Adesso diamo spazio agli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade. Ci ritroviamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie e di aggiornamenti in diretta dalla sintesi della giornata, che dove vi racconto le notizie principali dall'Italia e dall'estero, e poi alcune notizie invece pronte ad adesso da approfondire con gli ospiti. Fra le varie cose vi dicevo appunto le modifiche, questa circolare del ministro Speranza che modifica la quarantena, ci faremo spiegare in che senso, è una cosa importante, e poi siamo in attesa delle nuove regole del DPCM. Senta, certamente non abbiamo la situazione di marzo e neanche quella d'aprile, però abbiamo una situazione che si fa via via allarmante, è inutile nascondere questa cosa, è molto evidente che siamo di fronte a un divenire di un fenomeno che sta diventando un fenomeno pesante. Un fenomeno pesante, la situazione non è quella di marzo, dice il professor Massimo Galli, che è responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Dice appunto non è la situazione di marzo, però sta comunque diventando preoccupante, l'ho detto oggi a Sky, e sottolinea bisogna fare più tamponi. Sentiamo. È ora di fare più tamponi da più parti in maniera più ampia, non ce n'è, non possiamo uscire. Tamponi anche quelli rapidi dovrebbero essere resi disponibili anche per pediatri e medici di base. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi auguro anche che arrivi presto la possibilità di utilizzare i test salivari. È certamente difficile, ma che se non si tenta almeno di sperimentare molto e allargare rapidamente a partire dalle sperimentazioni l'utilizzo di test rapidi ovunque sia possibile, coinvolgendo le aziende, coinvolgendo i luoghi di lavoro in generale, coinvolgendo realtà dove questo possa essere attuato, il rischio diventa un rischio di restrizioni sempre più pesanti, stanti le cose come stanno adesso. E speriamo di no, ne parleremo dopo, ma questa necessità di fare più tamponi ne è convinto anche il segretario del maggior sindacato dei medici ospedalieri italiani, la Nao Assomed, che è Carlo Palermo, che saluto. Buonasera dottor Buonasera. Palermo, grazie di essere qui a Effetto Notte. Senta, quindi anche lei dice, come dice Massimo Galli, come molti altri insomma esperti del mondo sanitario, che è necessario fare più tamponi. In realtà è una cosa che si ripete già dalla prima ondata del coronavirus, non sembra che però si sia prontissimi in Italia, Palermo? Ma io sono assolutamente d'accordo col professor Galli. Il numero dei tamponi che vengono effettuati in Italia è tra i più bassi rispetto all'Europa con cui dovremmo confrontarci. Per cui è necessario assolutamente allargare questa disponibilità anche per non vedere, mi scusi, le code ai drive-in, 10 ore di attesa con bambini con febbre, insomma, è qualcosa insomma che andrebbe immediatamente superato. Bisogna introdurre anche i test rapidi, perché questo aiutano molto nello screening della popolazione. Insomma, bisogna arrivare a quei 300.000, 400.000 tamponi al giorno che auspicava il professor Crisanti qualche mese fa. Anche se, dottor Palermo, a proposito di Crisanti, visto che l'ha citato il virologo che è stato un po' la guida, il modello Veneto, ha detto proprio oggi, ma insomma qui a 24 mattino su Radio 24, i test rapidi non è che siano proprio così attendibili, sentiamolo. In genere quando comincia a esserci un tampone negativo, poi magari un tampone positivo, poi un tampone negativo, diciamo sicuramente dal processo infettivo è in via di risoluzione, quindi non credo che abbia un grosso impatto permettere alle persone di uscire con un solo tampone negativo. Dottor Palermo, fra l'altro sui test rapidi sa che c'è in questi giorni una polemica, nel senso ne avevo parlato giorni fa con Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, che aveva annunciato che in Lazio a brevissimo partiranno proprio direttamente negli studi dei medici di base i test rapidi. Dopodiché Conte, Presidente del Consiglio, due giorni dopo ha annunciato l'arrivo a breve di 5 milioni di test rapidi negli ambulatori dei medici di base, però proprio tra i medici c'è un dibattito piuttosto acceso tra quelli che sono contenti, entusiasti di questa cosa, perché dicono finalmente velocizziamo un po' le pratiche facendo anche noi direttamente nei nostri studi questi test, e altri medici che dicono ma vi immaginate, donne e uomini insomma con i loro ambulatori, vi immaginate le code che possono formarsi dentro i nostri piccoli ambulatori, e poi se ci sono degli asintomatici o qualcuno che effettivamente ha i sintomi, che cosa può succedere dentro i nostri piccoli studi? Lei che posizione ha su questo, dottor Palermo? Ma le obiezioni avanzate mi sembrano più che appropriate. Bisogna separare i percorsi tra infetto e non infetto, per cui non tutte le strutture dei medici di base, che spesso sono ambulatori privati, sono in grado di permettere questa separazione. Forse è possibile farlo in strutture tipo Cassa della Salute, dove sono state sviluppate, dove evidentemente percorsi di separazione tra infetti e non infetti sono più attuabili. Questo è un limite importante, non è che automaticamente possono essere distribuiti in tutti gli ambulatori dei medici di base in Italia. Bisogna considerare l'ambulatorio, l'organizzazione, la possibilità di separare i percorsi. Senta, invece poco fa la notizia che il ministro della Salute e Speranza ha emanato una circolare che modifica la quarantena. Ecco, avrei bisogno, dottor Palermo, che lei ci aiutasse a capirlo in modo molto didascalico, molto, molto semplice. Vediamo cosa ho capito io, che per esempio per gli asintomatici, quindi che risultano positivi al coronavirus, ma asintomatici, devono stare in isolamento almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine dei quali 10 giorni va eseguito un test molecolare. Se è risultato negativo, sono a posto a quel punto. Quindi 10 giorni per gli asintomatici più il test, se negativo, possono andare liberamente. Invece i sintomatici, le persone sintomatiche che esprimono sintomi da coronavirus, devono stare in isolamento almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Ecco, per esempio, in questo caso non ho capito bene quanti giorni quindi i sintomatici devono stare in quarantena. Ma i sintomatici, come sappiamo, prima per la dichiarazione di guarigione era necessario avere 2 tamponi, va bene? La proposta attuale segue le linee dell'OMS, va bene? Che prevede, in base a calcoli statistici insomma, che sono stati effettuati, a studi scientifici e che sono stati pubblicati e quindi discussi dalla comunità scientifica, è sufficiente avere 10 giorni dall'inizio dei sintomi, ovviamente, con almeno 3 giorni senza sintomi. Questo è il dato che viene richiesto per effettuare la dichiarazione di guarigione. Invece, per quanto riguarda l'altro settore, che è quello della quarantena, sono sufficienti 10 giorni dal momento del sospetto contagio, per il semplice fatto che entro 5 giorni in genere appunto si manifestano i sintomi, per cui avere 10 giorni è un lasso di tempo sufficiente per escludere il rischio di essere stati contagiati. Sta parlando, dottor Palermo, di coloro che sono venuti a contatto con degli infetti e si fanno questa quarantena, giusto per sicurezza. Allargando il numero, bisogna considerare un dato anche a riflessi anche economici, allargando il numero dei tamponi, allargando il numero quindi delle necessità del tracciamento, va bene, di coloro che sono stati in contatto quindi con il caso positivo, considerando il lasso di tempo che trascorre tra contatto e inizio malattia, lei capisce appunto che se si riesce ad abbassare con studi, basandosi sempre su studi scientifici, riesce ad abbassare il lasso di tempo in cui uno è costretto a rimanere in isolamento, ovviamente migliora il quadro sociale, per così dire, si riduce il lasso di tempo in cui uno non va al lavoro, per esempio, no? Quindi ci sono come dire, disposizioni che vanno nel senso di contenere certamente la diffusione del virus, che è importantissimo in questa fase, non vogliamo sovraccaricare gli ospedali, ma allo stesso tempo tiene conto delle efficienze sociali, economici di una comunità. Chiaramente, equilibri difficili da tenere insieme, ma che vanno tenuti insieme. Grazie, dottor Carlo Palermo. Grazie, buona Grazie serata e buon lavoro. Grazie. Oh, e sapete, dicevamo anche nella sintesi della giornata, che lo sport professionistico in Italia e anche amatoriale particolarmente colpito, come tutti i settori della nostra vita, dal coronavirus. E è stato lanciato un allarme da Cozzoli, che è il... Vito Cozzoli è presidente di Sport e Salute, che è una, praticamente il braccio operativo dello Stato per lo sviluppo degli sport di base e dei corretti stili di vita, che saluto. Buonasera Cozzoli. Buonasera, buonasera ai radioascoltatori di Radio 24. Lei ha lanciato un allarme, no? A proposito delle ulteriori strette che stanno arrivando, tra le anticipazioni probabilmente il calcetto dovrebbe essere sospeso, cioè le partitelle tra amici, sì alle palestre, ma ci saranno vari sport vietati, permessi particolari per bambini e adulti. Lei dice attenzione, che lo sport appunto è salute, è utile anche da un punto di vista psicologico. Ma sì, noi la nostra società si chiama Sport e Salute con la congiunzione, però quello che io ho voluto dire oggi è che lo sport è salute con il verbo, nel senso che ovviamente noi dobbiamo tener conto di tutte le cautele che ci verranno comunicate dalle autorità che presidono la salute pubblica, però sappiamo anche che lo sport è fondamentale da vari punti di vista, sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo sociale, delle relazioni con gli altri, e quindi ci augureremmo che si possa vivere in sicurezza l'attività sportiva. Ovviamente siamo anche un po' preoccupati per il tessuto dello sport di base, ovviamente aspettiamo il DPCM, le regole sanitarie ci guideranno e ci devono guidare. Però la speranza è che non penalizzino troppo lo sforzo enorme fatto dalle società sportive per rialzarsi, per seguire tutte le norme di sicurezza, per riprendere l'attività. Quindi, ha visto però Cozzoli che anche insomma, tra i calciatori continuano a esserci contagi, e lì tra l'altro dovrebbero seguire una serie di protocolli, essere più controllati, mentre per esempio quelli che fanno le partitelle tra amici, il cosiddetto calcetto, insomma, no? tra persone normali, tra virgolette, potrebbe essere più a rischio. Credo che nel nuovo DPCM, ma attendiamo naturalmente prima di dire cose inesatte, naturalmente la questione della corsa, del running è mantenuto, per ora le palestre rimangono aperte, quindi c'è una certa mediazione, un compromesso, perché chiaramente gli sport di squadra sono quelli che più facilmente, no, possono creare contagi. Beh, chiaramente io penso che ci siano in questo momento tre livelli di attività sportiva: lo sport professionistico, lo sport dilettantistico ma organizzato, e lo sport amatoriale. Allora, lo sport professionistico ha dei protocolli molto seri, molto rigorosi, che se osservati bene dovrebbero evitare il contagio. Io vi racconto l'esperienza degli internazionali di tennis che noi abbiamo organizzato insieme alla FIT. Abbiamo organizzato una bolla rigorosa, severa, abbiamo un record, non abbiamo avuto un positivo nonostante i tennisti arrivassero da ogni parte del mondo. Questo significa che quando si costruisce una bolla seria si può preservare. Il secondo livello è quello che prima tentavo di raccontare, ovvero quello delle società dilettantistiche che fanno capo anche alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate. Qui ci sono dei protocolli, le società sportive, ripeto, hanno fatto grandissimi sforzi per ottemperare a quelle che erano le norme previste. Come diceva, per rimettersi in piedi, insomma, con molte difficoltà. E per quello invece amatoriale, dottor Cozzoli, che poi ci dobbiamo lasciare? Beh, per quelle amatoriali è chiaro che la situazione è più complicata, lì dipende anche dalla nostra responsabilità, dalla nostra attenzione, perché lo sport è un momento fondamentale, ripeto, della relazione anche con gli altri. È sicuramente fondamentale correre, mantenersi in forma, e quindi ben venga il mancato obbligo di mascherina per i runner, però ripeto, lo sport è anche socialità, e quindi ci auguriamo che si possa vivere in libertà e sicurezza l'attività sportiva, pensando sia ai praticanti ma anche al lavoro sportivo. Certo, quello, dottor Cozzoli, che ci auguriamo tutti, poi vediamo insomma come si riesce, come dicevamo prima, anche a trovare questo difficile equilibrio tra la salute e il mantenere non soltanto appunto aperte le attività produttive, la scuola eccetera eccetera, ma anche gli spazi di libertà, di socialità, come diceva lei. Vedremo tra a breve se escono queste nuove regole del DPCM. Intanto grazie dottor Vito Cozzoli. Grazie, buona serata. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie. Allora, ci prendiamo come sempre a questo punto una pausa di riflessione, di respiro. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp. Nino dice: grazie Roberta per la tua attenzione al mondo dello sport, di base molto importante. Infatti, naturalmente, è una cosa che fa bene a tutti, anche in un momento psicologico difficile come è stato quello dei mesi passati e come poi anche adesso. Però ci sentiamo tra pochissimo con Ratta con la Folgore e con altre cose. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie a fine giornata, le più importanti da sapere, per non dire prima o poi io questa non la sapevo, le trovate qui a Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22. Roberta Giordano ve le racconta prima in una sintesi della giornata iniziale, poi con diversi approfondimenti insieme agli ospiti. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, i vostri commenti, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Anna dice: Roberta, tu che sei in contatto con molti esperti, quando inizierà a manifestarsi la pura puntuale influenza, che cosa potrebbe accadere? Beh, ne abbiamo parlato tante volte. Intanto si è tanto premuto sulla campagna vaccinale antinfluenzale, però si sa che in molte regioni insomma, stanno arrivando in ritardo questi vaccini antinfluenzali. In più la difficoltà di capire, li devono fare i medici, bisogna farlo in farmacia, quelli che i vaccini che arrivano, per farli più velocemente bisogna distribuirli tra vari enti eccetera, oppure chi li devi fare. Dopodiché questo vaccino antinfluenzale dovrebbe servire non solo a rendere più forti soprattutto le persone più fragili, ma anche a cercare di non rischiare di confondere il Covid con l'influenza stagionale. Insomma, diciamo, non è un momento facile un po' in tutti i sensi. Si parlava di organizzare la medicina di territorio e anche qua insomma ci sono diverse mancanze. Comunque adesso passiamo invece al DPCM e stiamo attendendo con ansia trepidante, come si dice, e ne voglio parlare almeno sulle anticipazioni tra pochissimo con un ospite che saluterò a breve. Escluderei uno lockdown, lo diciamo a ragion veduta, perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire, prevedo qualche cosiddetto lockdown molto circoscritto territorialmente, ma non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato sul territorio nazionale o su ampie aree del territorio. E questo, meno male, è un periodo diverso naturalmente da quando siamo stati colti tutti quanti alle spalle, l'Italia per prima in Occidente, dal coronavirus. Quindi niente lockdown generale, però insomma varie restrizioni, varie regole che aspettiamo in questo nuovo DPCM che dovrebbe essere varato stasera al massimo domani, e poi possibili lockdown territoriali come è stato fatto per esempio a Latina. Ne voglio parlare, dicevo, col professor Alfonso Celotto, grande costituzionalista, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Professore, bentornato. Buonasera, sempre con piacere. Piacere reciproco, e anche avrei piacere di sapere già che cosa succederà, ma insomma per il momento non ci sono ancora delle certezze, non c'è nulla di definitivo, professor Celotto, ma intanto si comincia a dire che governo e regioni stanno elaborando delle misure antimovida. Sembra che anche un po' tutte le regioni siano d'accordo su questo. Allora, per quel che riguarda le nuove leggi, noi DPCM, bisogna fare quella classica citazione che era di Vujadin Voskov, no, del calcio: rigore è quando arbitro fischia. In che senso? Che finché le cose non sono in gazzetta ufficiale noi non abbiamo certezze. Certo. E quindi sono due giorni che si inseguono chiacchiere, che si inseguono riunioni, che ci sono mediazioni, il DPCM attuale scade il 14, quindi abbiamo a rigore ancora 2 giorni prima di doverne avere uno nuovo, però i filoni di intervento mi sembrano abbastanza chiari, no? Il primo è quello della movida e delle feste private e anche delle cerimonie religiose, battesimi, comunioni, dove ci sarà una limitazione, e questa mi sembra abbastanza prevedibile. Tra l'altro, professor Cellotto, vedo che si potrebbe essere valutata la raccomandazione di limitare a non più di 6 persone le feste a casa, per esempio, no? Sì, questa è una delle misure più controverse, anche perché sicuramente le feste a casa possono essere rischiose perché sono non fra congiunti, poi sono momenti di contatto, però il problema è anche il controllo, perché noi, come sappiamo, per fare delle ispezioni domiciliari serve l'autorizzazione dell'organo giudiziario, quindi è un po' complicato, sono raccomandazioni, sono tendenze. Io direi una cosa. Noi dobbiamo usare il buon senso, cioè in questo momento di invitare 30 amici a casa non è il momento, ma non è il momento nell'interesse nostro individuale, oltre che degli amici. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, perché il non avere il nuovo lockdown è nelle mani di ciascuno di noi, quindi ciascuno di noi deve avere comportamenti più responsabili e più attenti. Questa è la premessa generale, quindi distanziamento, mascherina, igiene. Ora il governo cerca di imporre le misure come possibile, no? Mascherina obbligatoria anche all'aperto, e da qualche giorno l'abbiamo vista, anche se non tutti ancora la portano. Poi ci sarà questa roba di feste, movida, incontri, cerimonie, anche lì bisogna limitarli plausibilmente, possibilmente. Poi ci sarà un intervento sullo sport, probabilmente, soprattutto sullo sport amatoriale. Anche qui c'è stata un po' di confusione sull'attività motoria, la corsa, l'attività sportiva, e comunque io credo che ci sarà una limitazione per calcetto, basket, questi sport di contatto a livello amatoriale, per ora almeno quelli. E poi si discute sullo smart working, sulle scuole, per le scuole superiori, per farle ritornare a distanza almeno in alcune regioni, però questi sono punti ancora controversi. Vedevo Cellotto, per esempio, che la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, De Micheli, ha convocato per mercoledì, quindi tra 2 giorni, le associazioni rappresentative delle aziende del trasporto pubblico locale, perché fra le varie ipotesi ci sarebbe anche fare lezioni a distanza per i ragazzi delle superiori se ci sono delle modifiche al trasporto pubblico locale, se ci dovesse essere una riduzione della capienza per evitare troppi contatti del trasporto pubblico locale. Perché i posti a sedere li abbiamo visti, sono limitati, ma i posti in piedi è difficilissimo limitarli, salvo non mettere veramente un contapersone all'ingresso di ogni autobus e ogni vagone della metropolitana. D'altra parte il trasporto pubblico è veramente un elemento essenziale per tutti noi che lavoriamo, andiamo a scuola, quindi probabilmente ci sarà anche un intervento del genere. D'altra parte dobbiamo ricordare, noi siamo all'inizio di ottobre, le influenze non sono ancora arrivate, sicuramente ci sono tante positività in giro, lo stiamo vedendo, perché molto probabilmente si dice che addirittura ormai il 10% della popolazione mondiale è positiva, e quindi bisogna cercare di contenere proprio in vista dell'inverno che sta arrivando la diffusione del virus. In questo modo poi con la prossima primavera dovremmo riuscire a essere a buon punto. Lo speriamo, professore, lo speriamo. Senta, per chiudere, mi pare che però una cosa certa sia che le ordinanze delle regioni, visto che è costante questo rapporto tra governo e regioni, però che le regioni possano soltanto emettere delle ordinanze autonome per conto loro più restrittive rispetto alle regole che saranno anche nel prossimo DPCM, no? Quindi non ampliative. Sì. Allora, questo è un nodo ancora irrisolto da 6 mesi, perché la competenza su queste ordinanze è sia dello Stato, sia delle regioni, sia dei comuni. Ovviamente dovrebbero essere gli interventi coordinati, cioè non può una singola regione senza intesa con lo Stato fissare regole di accesso in regione o fare dei lockdown. Ci vuole sempre il coordinamento. L'abbiamo visto con la Sardegna 2 settimane fa, quando ha imposto il tampone a tutti in ingresso, è stata subito dichiarata illegittima. Io penso che in questo momento ci voglia questo fra diversi enti locali, collaborazione, anche per non fare troppa confusione per i cittadini, altrimenti poi siamo noi a rimetterci che non sappiamo bene quello che ha detto il Comune di Roma, la Regione Lazio, lo Stato, e restiamo confusissimi. Chiaro. Abbiamo bisogno di certezza e di serenità. Regole chiare. Grazie professor Alfonso Cellotto, a presto quindi, prima avremo qualcosa di più certo. Ne avremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie professore. Grazie. La viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. We are today simplifying, standardizing and in some places toughening local rules in England by introducing three levels of COVID. Three level, tre livelli, questo che parla il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha annunciato un lockdown con tre livelli di misure. Rischio medio, alto e molto alto, perché sapete che anche la Gran Bretagna è messa piuttosto male con i nuovi contagi. Ma ci facciamo raccontare tutto dalla nostra Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Cara Giorgia. Ciao Roberto e buonasera ascoltatori. Ciao Giorgia. Allora, quindi l'annuncio è questo, in che senso? Quindi hai capito quali potrebbero essere le misure per i diversi livelli di gravità, insomma, a seconda delle zone? Ebbene, il primo ministro è apparso proprio poco fa come un lago tondo della bilancia fra il cancelliere dello scacchiere, il ministro delle finanze Sunak, e dall'altro lato il consulente medico scientifico Chris Whitty, e hanno cercato di fare un po' chiarezza bilanciando i bisogni dell'economia e dall'altro lato il bisogno della salute dei britannici, che è veramente molto a rischio. I dati sono allarmanti, stanno incrementando soprattutto le ospitalizzazioni, si passa quasi oltre 600 al giorno. Ebbene, il compromesso che Boris Johnson ha annunciato poco fa sono appunto questi tre livelli, in cui il livello medio, in cui si trovano i tre quarti del Regno Unito, è un livello in cui prevalgono le regole che sono in vigore già ora, ovvero la regola del 6 persone con cui si può socializzare e la chiusura dei locali, dei bar e dei pub alle 10. Mm. Poi il livello successivo, quello di alto, invece prevede che non si possa socializzare nelle case private, ad esempio, per poi passare a quello alto che scatterà da mercoledì già a Liverpool e nella zona attorno, in cui non si potrà incontrare né nelle case private né fuori, e dovranno chiudere i pub, i bar, le palestre e questi tipi di centri. Ora, saranno una misura che verrà revisionata ogni 4 settimane e verrà presa in accordo con le autorità locali delle varie aree in cui purtroppo i numeri del Covid sono destinati a salire. Giorgia, a parte che poi come si possa socializzare o meno in casa, come si possa controllare questo, diciamo che è un rebus che riguarda un po' tutti quelli che stanno pensando delle misure così drastiche, no? Sì. Ha spiegato Johnson come si potrebbe, cioè vuole dispiegare l'esercito, in che senso, che tipo di controlli potrà fare questo? Allora, io posso dirvi esperienza. Boris Johnson aveva già annunciato che va bene, noi i britannici amiamo le libertà, è difficile non restringercele, però ci interverrà l'esercito, ci saranno multe fino a 10.000 sterline. Di fatto posso dirvi che le mascherine, anche lì multe, sanzioni a chi non le mette, nessuno, veramente molti pochi le mettono, così come pure le distanze sociali non sono rispettate. Boris Johnson, oltre ad avere un problema di portare avanti le risorse come i test, i tamponi che aveva promesso, sta avendo molti problemi a far rispettare le norme, quindi sono già molti, a partire dagli scienziati e dai medici, a dire anche una volta che verrà innescato il livello 3, il very high, dove verranno chiusi i pub e i bar, non sarà comunque sufficiente a contenere il virus, e questo perché purtroppo buona parte dipende anche da noi. Degli individui, della responsabilità, chiaramente sì. Giorgia, ma speriamo bene, perché insomma per i fratelli della Gran Bretagna, i fratelli francesi eccetera, ma ovviamente a livello individuale bisogna essere responsabili in Italia come altrove, altrimenti non si riesce a raggiungere il risultato. Grazie intanto, cara Giorgia Scaturro, un abbraccio. Grazie. A voi. Ciao Giorgia, mi raccomando. Un po' di leggerezza, parliamo di musica, parliamo di Sanremo, sperando che poi ci sia a marzo, con la nostra Marta Cagnola. Ciao cara Marta. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Sì, bisogna mettere le mani avantissimo, come sempre. È novità giusto, in vista, però, novità in vista annunciate già oggi, incrociando novità le dita. In vista, perché oggi è stato pubblicato il regolamento di questo festival, che ricordiamo sarà in programma dal 2 al 6 marzo, quindi è stato fatto slittare il più avanti possibile per cercare di capire come sarà la situazione allora. Allora, cosa succederà? La serata del giovedì sarà dedicata alla canzone d'autore, quindi non a canzoni della storia di Sanremo come è stato l'anno scorso, ma a canzoni d'autore. Non ci sarà più la sfida diretta tra i giovani, e poi ritorna il televoto. Il televoto anche nelle prime due serate, il televoto che tanto ha fatto discutere e tanti tormenti ha creato, sempre comunque temperato dalla giuria della stampa e dalla giuria demoscopica, con varie composizioni nelle varie serate di questo festival, che speriamo si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Incrociamo le dita, perché se ci sarà Sanremo, al di là che piaccia o non piaccia, vuol dire che le cose staranno decisamente meglio, ecco, oltre a sentire della musica. Sì, come dico sempre. Sì, quando mi dicono ma ci sarà Sanremo, io ogni volta rispondo: ma se saremo in questa situazione a marzo, Sanremo sarà l'ultima delle nostre preoccupazioni. Avremo preoccupazioni molto più grosse. Già, quindi dobbiamo fare tutto il tifo che ci possa essere Sanremo. Bene, giusto, grazie Marta Cagnola. Ciao Marta. Grazie, a presto. E noi ci risentiamo molto molto breve, alle 22. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.